violento, lento, violento. Ma come si fa a stare fermo? È vero, è vero. I never care to sleep waiting for you to go. Cosa? cosa c'entra questa cosa qua? No, non me la ricordo. Sono partito per dire una cosa, poi dopo. Musica allo stato puro, te ripide sicuro, te dico fermate. Dai Gigi, fammi sentire sta bella cassa, e vai. Looking for them, everything. di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Let the rain turn to sunshine. Let the dark turn into light. I don't wanna be a past or a meanest name unknown. Let the sun is turn to joy. Let the sun is deep my heart. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore.

passi del cammino. Questi passi del cammino sono di Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino, tu sei Gigi, tu cammino. Questi passi del cammino sono di Gigi D'Agostino. Ogni giorno metti la sveglietta e quando suona alle 18 corri in cameretta. Il cammino non t'aspetta. M2O. Breathe if it's magic. Remember. Mi ricordo una volta quando ero molto piccolo, tantissimi anni fa, che stavo ascoltando la radio e c'era un presentatore che a un certo punto questo è spettacolare, mette i brividi. Spettacolo, frate. Sei sintonizzato sulla frequenza della benevolenza, M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. We'll be right back.

tu magari più bella. Se non ti piace così la storia, la scrivila tu magari più bella.